fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. 2:18 del mattino, è sempre sabato 6 ottobre del 2018, in diretta sempre da Ristoradio Convento, Convento di Lonato, live. Un'altra bella serata che vi stiamo raccontando come sempre dai nostri microfoni, e facendo un paragone con l'atletica leggera in una sorta di staffetta, abbiamo avuto prima il festeggiato, uno dei festeggiati, Fabio da Verona, che compie 23 anni, e adesso abbiamo i suoi amici che non so se vogliono offenderlo o se vogliono fargli gli auguri in diretta o se semplicemente vogliono dirci qualcosa. Intanto li conosciamo. Benvenuti ragazzi. Beh, si stanno facendo giustamente le foto di rito. Benvenuti, benvenuti, come va? Tutto bene, da Dio. Tutto bene, da Dio addirittura. Allora vai, facciamo un giro di nomi al microfono così vi conosciamo meglio. Parte chi vuole. Non offritevi volontari tutti. Veronica. Veronica. Noemi. Elia. Un altro Elia. Ah, i doppi Elia che ci aveva presentato prima. E Elena. Ok, perfetto. Tutti amici di Fabio, qualche collega, qualche parente, come funziona? Amico stretto. No, amici. Amico stretto. Cioè, non quasi. Nel senso che dormite insieme. Non troppo stretto. Non amico. Diciamo amico alla giusta distanza. Esatto. Dopo non ci sposiamo. Ok, ok. Da quanto vi conoscete, Elia? 18, sembra stessi rispondendo a un quiz. 18 anni. Bene, e gli altri invece? Conoscenti. Siamo educati. Ah, perfetto, giustamente dopo aver sentito che lì amico stretto vi tenete alla giusta distanza. E ok, da dove venite? Tutti dalla provincia di Verona, della zona? Padova, lei è vicinissimo. Padova, abbiamo avuto anche un gruppo di Padova che è venuto a festeggiare l'addio annubilato. Magari cercate in giro, magari vi conoscete, anche perché Padova è piccola, è normale conoscersi, conoscete tutti. Allora dai, volete mandare un messaggio a Fabio? Volete dire qualcosa? Sei stretto, che sei stretto. Esatto. È perché sei stretto, ti sei definito stretto? Devi darci dentro di pacco. È criptico. Al microfono, dici. Fabio, devi darci dentro di più. Specialmente in queste serate importanti. Beh, e la lasciamo lì. Voi sapete quello che significa. Lui sa già cosa intendo. Sì, assolutamente. Voi non vogliamo indagare. Ragazzi, voi volete dire qualcosa? Siamo un gruppo un po'. No, un po' fantasioso. Però. Cosa? Allora io sono esaltata perché è la mia prima volta che vado in radio. Ma ci piace esaudire i desideri della gente, è una bellissima emozione. Quando è che vai in diretta? Siamo in diretta, significa contemporanea, quindi no, siamo in diretta. Vai, allora prenditi il microfono, racconta qualcosa. Sfrutta questa occasione, siamo qui apposta, quindi vai tranquilla. Contenta, basta. Ho esaudito il mio sogno. Credi? Vai, allora prenditi lo spazio, non ti preoccupare. Niente, basta, è a posto così. È a posto così. Allora, vai, facciamo così. Giriamo la frittata. Cosa fate di bello nella vita? Così vi conosciamo un po' meglio. Continua a rispondere al quiz, lui. Ogni domanda lui preme. C'ha questa cosa addosso che qualsiasi cosa succeda lui preme il pulsante e risponde. Ma l'abbiamo capito, abbiamo avuto questa sensazione. Dovresti aggiungerlo. Dovremmo, esatto. Faremo in modo di averlo. No, dicevo, dai, cosa fate nella vita? Studiate, lavorate? Purtroppo, cioè, ci tocca anche quello. E cosa fate di bello? Autoriparatore io. Commessa. Ok. Dell'università. Ok. Manutentore macchinari di controllio. Hai detto cin. Che ora che spieghi uno cosa fa, ha finito le 8 ore di lavoro. Già deve timbrare l'uscita. E ok, e l'unica che non ci ha detto il studente, ma non ci ha detto di cosa, sì, impiegata. Tecnico di laboratorio. Tecnico di laboratorio, chimica, tipo. Sì, biochimica. Biochimica. Dove? Verona, ok, quindi non ti sei in patria. Non ti sei allontanata di troppo, perfetto. Ok, allora, sì, sono cuffie vere, ho avuto questo piccolo dubbio per qualche secondo. Va bene, dai, allora, grazie per essere passati qui da noi. Facciamo ancora gli auguri ovviamente a Fabio, che vi ha coinvolti e invitati questa sera, e speriamo che torniate a trovarci presto. Ok? Va bene, grazie mille ragazzi. Grazie. Un saluto, ciao. Ciao. Io sono Nicola. Grazie Nicola. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Facciamo insieme.